Poi le sette furono in disaccordo tra loro. Guai a coloro che non credono quando compariranno nel giorno terribile. Ah, come vedranno e intenderanno nel giorno in cui saranno ricondotti a noi. Ma gli ingiusti oggi sono in palese errore. Avvertili del giorno del rimorso in cui sarà emesso l'ordine mentre essi saranno distratti e non credenti. Siamo noi che erediteremo la terra e quanti vi stanno sopra e che a noi saranno ricondotti. Ricorda nel libro Abramo. In verità era un veridico, un profeta. Disse a suo padre: O padre, perché adori ciò che non vede e non sente e non può proteggerti d'alcunché? O padre, mi è stata data una scienza che tu non hai avuto. Seguimi e ti condurrò sulla retta via. O padre, non adorare Satana. Egli è sempre disobbediente al compassionevole. O padre, temo che ti giunga un castigo del compassionevole e che tu divenga uno dei prossimi di Satana. Disse: O Abramo, hai in odio i miei dèi? Se non desisti, ti lapiderò. Allontanati per qualche tempo. Rispose: Pace su di te. Implorerò per te il perdono del mio Signore, poiché egli è sollecito nei miei confronti. Mi allontano da voi e da ciò che adorate all'infuori di Allah. Mi rivolgo al Signore, che certamente non sarò infelice nella mia invocazione al mio Signore. Quando poi si fu allontanato da loro e da quello che adoravano all'infuori di Allah, gli donammo Isacco e Giacobbe, ed entrambi li facemmo profeti. Concedemmo loro la nostra misericordia e un sublime, veritiero eloquio. Ricorda Mosè nel libro. In verità era un eletto, un messaggero, un profeta. Lo chiamammo dalla parte destra del monte e lo facemmo avvicinare in confidenza. E come misericordia da parte nostra gli demmo suo fratello Aronne come profeta. Ricorda Ismaele nel libro. In verità era sincero nella sua promessa, era un messaggero, un profeta. Imponeva alla sua famiglia l'orazione e la decima ed era gradito il suo Signore. Ricorda Idris nel libro. In verità era veridico, un profeta. Lo elevammo in alto luogo. Essi sono coloro che Allah ha colmato della sua grazia tra i profeti discendenti di Adamo, tra coloro che portammo con Noè, tra i discendenti di Abramo e di Israele e tra coloro che abbiamo guidato e scelto. Quando venivano recitati loro i segni del compassionevole, cadevano in prosternazione, piangendo. Coloro che vennero dopo di loro tralasciarono l'orazione e si abbandonarono alle passioni. Incontreranno la perdizione. Coloro che invece si pentono, credono e compiono il bene, entreranno nel giardino e non subiranno alcun torto. Nei giardini di Eden, che il compassionevole ha promesso ai suoi servi che hanno creduto nell'invisibile, ai suoi servi, che la sua promessa è imminente. E non ascolteranno colà nessun discorso vano, ma solo pace, e verranno sostentati al mattino e alla sera. Questo è il giardino che faremo ereditare ai nostri servi che saranno stati timorati. Noi scendiamo solo per ordine del tuo Signore. A Lui appartiene tutto quello che ci sta innanzi, tutto quello che è dietro di noi e ciò che vi è frammezzo. Il tuo Signore non è immemore. È il Signore dei cieli e della terra e di tutto ciò che vi è frammezzo. Adoralo dunque e persevera nell'adorazione. Conosci qualcuno che abbia il suo stesso nome? Dice l'uomo: Quando sarò morto, chi mi riporterà alla vita? Non si ricorda l'uomo che fummo noi a crearlo quando ancora non era nulla? Per il tuo Signore li riuniremo insieme ai diavoli e poi li condurremo inginocchiati attorno all'inferno. Quindi trarremo da ogni gruppo quello che fu più arrogante verso il compassionevole, che meglio di tutti conosciamo coloro che più meritano di bruciarvi. Nessuno di voi mancherà di passarvi. Ciò è fermamente stabilito dal tuo Signore. Salveremo coloro che ci hanno temuto e lasceremo gli ingiusti in ginocchio. Quando vengono recitati i nostri chiari versetti, i miscredenti dicono a coloro che credono: quale dei due partiti ha migliore posizione e buona compagnia? Quante generazioni abbiamo annientato prima di loro, più ricche di beni e di prestigio? Di. Che il compassionevole prolunghi la vita di coloro che sono sviati, finché non vedranno il castigo e l'ora che li minaccia. Sapranno allora chi si trova nella peggiore situazione e chi ha la compagine più debole. Allah rafforza la guida di quelli che seguono la retta via. Le buone tracce che restano sono le migliori per la ricompensa e per il migliore esito presso Allah. Che ti sembra di colui che ha rinnegato i nostri segni asserendo: certo avrò beni e figli? Conosce il mistero o ha stretto un patto con il compassionevole? Certo che no. Annoteremo quello che dice e molto accresceremo il suo tormento. Saremo noi ad ereditare ciò di cui parla e si presenterà da solo dinanzi a noi. Si sono presi dei all'infuori di Allah sperando che fossero loro d'aiuto. Invece no, essi rifiuteranno la loro adorazione e saranno loro nemici. Non vedi che abbiamo mandato i diavoli contro i miscredenti per incitarli con forza? Non aver fretta di combatterli. Siamo noi a tenere il computo. Il giorno in cui riuniremo i timorati presso il compassionevole come invitati d'onore e spingeremo i malvagi nell'inferno come bestie all'abbeveratoio, non beneficeranno di nessuna intercessione, a parte colui che avrà fatto un patto con il compassionevole. Dicono: Allah si è preso un figlio. Avete detto qualcosa di mostruoso. Manca poco che si spacchino i cieli, si apra la terra e cadano a pezzi le montagne, perché attribuiscono un figlio al compassionevole. Non si addice al compassionevole prendersi un figlio. Tutte le creature dai cieli e dalla terra si presentano come servi al compassionevole. Egli li ha contati e tiene il conto, e nel giorno della resurrezione ognuno si presenterà da solo davanti a lui. In verità il compassionevole concederà il suo amore a coloro che credono e compiono il bene. Lo rendemmo facile alla tua lingua, perché tu annunci la lieta novella ai timorati e avverta il popolo ostile. Quante generazioni facemmo perire prima di loro? Ne puoi ritrovare anche uno solo o sentire il minimo bisbiglio?